Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, benvenuti, Fabbrica 2.4. Oggi l'ospite è Andrea Dell'Orto, che è presidente di Confindustria Monza e Brianza, che da poco si è fusa con Assolombarda, di cui Dell'Orto è anche vicepresidente. Buongiorno. Buongiorno. E con lui parleremo di manifatturiero. Perché? Perché alle porte di Milano, a pochissimi chilometri da Milano, sorge una specie di Eden del manifatturiero, un territorio che dà la dimostrazione pratica di come mai il manifatturiero sia tanto importante per lo sviluppo economico in Italia. Non solo perché è la sesta provincia europea per valore aggiunto manifatturiero, 7,4 miliardi, non solo perché dal 2011 al 2014 è aumentato dell'8,1% in momento di crisi il tasso di occupati nel settore manifatturiero, quindi 14.000 posti di lavoro in più solo in quella provincia, in tre anni della crisi, non solo perché c'è il manifatturiero che fa il 24,4% del PIL contro il 15% dell'Italia, non solo perché c'è il massimo valore aggiunto per dipendente in Italia, 75.000 euro, record italiano, uno dei record europei, ma anche perché c'è un fenomeno tutto brianzolo delle aziende resilienti alla crisi. Il 20,3% delle aziende in Brianza, tutte manifatturiere, nel 2013 hanno riportato sia un fatturato sia un EBITDA, cioè un utile lordo, superiore a quello del 2014. Questo gruppo di aziende resilienti, in larga maggioranza della meccanica e dell'elettronica, rappresenta il 21,6% del fatturato della provincia ed è riuscito nella crisi non solo a resistere ma a andare meglio di tutti gli altri. E questa cosa, in una trasmissione che è forse la prima in Italia dedicata al manifatturiero, ci ha interessato moltissimo. Quindi chiediamo a Dell'Orto come è stato possibile questo. Ma è stato possibile per il fatto che il modello di fare impresa in Brianza è tutt'oggi un modello vincente, lo dimostrano i dati. Io penso che il dato più significativo sia quello del valore aggiunto, che è al 25% di quello prodotto nella provincia di Monza e Brianza, che è ben superiore alla media del 15% italiano e ben superiore al famoso 20% che è il target europeo. Quindi penso che un modello brianzolo si basa su questo, si basa sul fatto che sono molte imprese ancora familiari. E vi ricordo che è molto importante il ruolo che hanno le famiglie all'interno di un'impresa, perché soprattutto quando c'è stato il momento di crisi le famiglie hanno fatto la loro parte in maniera importante, investendo e facendo crescere il brand di questa azienda a livello internazionale. E si lancia sul fatto che è uno di quei territori da cui deve partire la politica industriale di cui tanto parliamo e di cui oggi di fatto non ce n'è traccia. Ecco, ha anticipato una delle domande che devo fare, anche perché voi in Brianza avete un'idea di politica industriale e avete anche sviluppato un tavolo di sviluppo territoriale che è finalizzato al perseguimento di quest'idea, ma ne parliamo dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci, stiamo parlando con Andrea Dell'Orto, che è presidente di Confindustria Monza e Brianza, e abbiamo appena elencato i singolari primati di questo distretto, che forse è il più manifatturiero d'Italia e dove la manifattura è anche più ricca, e Dell'Orto ci diceva che per mantenere questi primati è necessario sviluppare una politica industriale. In che modo? Ma politica industriale che parta da un territorio, innanzitutto dando una nuova veste, un futuro anche al manifatturiero, quindi quello su cui stiamo puntando molto è cogliere le nuove sfide del manifatturiero. Quindi quali sono queste sfide? Ad esempio l'industria 4.0, con l'introduzione sempre più massiva delle tecnologie digitali anche all'interno dei processi produttivi e manifatturieri, anche all'interno della progettazione, le nanotecnologie o la nanomanifattura, quindi vuol dire nuovi prodotti o nuovi metodi di produzione, e il manifattura additiva anche. Manifattura additiva, esatto, che quindi ragiona sull'aggiungere materiale, non più la vecchia tradizionale tecnologia di togliere materiale, e anche il manuservice, che è molto importante perché oggi ci spostiamo sempre più dal prodotto al cliente, quindi il servizio a valle diventa importante come la parte di design e di progettazione. Infine, sempre legato alle sfide del manifatturiero, molto importante il ruolo che in futuro avranno i clusters, i quali andranno a definire anche le linee guida della politica industriale e anche del manifatturiero. Che cosa sono i cluster? I cluster sono degli organismi che vanno a mettere insieme imprese e istituzioni, imprese per la maggior parte manifatturiere ma non solo, e vanno a definire quelle che saranno le linee guida degli sviluppi e degli advanced development del futuro, in funzione anche di quelle che sono le linee guida della comunità europea, e di conseguenza anche con l'obiettivo di andare a intercettare eventuali finanziamenti non solo locali, regionali e nazionali, ma anche che arrivano dall'Europa. Sì, perché in realtà una politica industriale viene fatta, per quel poco che fa, ma che comunque fa, dall'Europa, però è difficile saper rispondere ai bandi e saperli rispettare, soprattutto per le piccole imprese. Infatti il problema non solo di Monza e Brianza, del manifatturiero in questa area, ma in generale in Italia, è stato quello di saper cogliere le opportunità che arrivavano da questi imponenti, per certi versi, bandi di finanziamento europei, che sicuramente nazioni come la Germania, più organizzate, che facevano più sistema, sapevano cogliere. Quindi questa nuova tendenza legata ai cluster sicuramente va in quella direzione e sta coinvolgendo anche tutte le aziende importanti del paese, quindi questo è positivo, perché se si coinvolgono anche le grandi aziende e le medie, poi vanno a trainare anche l'indotto delle piccole, insieme poi al ruolo che possono avere importante anche le università. Ecco, voi avete fatto un tavolo di sviluppo territoriale in cui sono presenti la Confindustria, la Camera di Commercio, il Comune, forse anche i sindacati? Sì. Anche i sindacati, che si propone di sviluppare una sorta di piattaforma di politica industriale per la Brianza, e nello specifico la diffusione della banda ultralarga per le aziende, creare meccanismi per permettere alle imprese la fruibilità dei bandi europei, fare addirittura un parco tecnologico per delle start-up in Brianza e spingere l'amministrazione locale a creare humus favorevoli per imprese e nuove imprese. So che c'è anche il sindaco di Monza, Scannagatti, che è anche presidente dell'ANCI Lombardia ed è molto coinvolto, non nelle questioni di politica industriale. Sì, assolutamente. Diciamo che questo tavolo è uno strumento concreto per capire e far partire veramente un primo modo di fare politica industriale dei territori, quindi coinvolgendo tutti gli attori e finalmente tutti che hanno la volontà e la voglia di mettersi in discussione per un obiettivo comune. Sicuramente è stato un fatto positivo e i progetti che lei ha citato ne sono un esempio, sono un punto d'inizio. Il fatto che poi alcune persone hanno dei ruoli anche sugli asset importanti, perché il sindaco, oltre ad essere presidente dell'ANCI, è anche presidente del consorzio della Villa Reale, che va a gestire poi tutta l'area legata su cui verte la villa, il parco e l'autodromo, e io stesso sono anche presidente dell'autodromo di Monza, quindi queste sinergie messe a fattor comune non solo permettono di fare una politica industriale, ma permettono finalmente di avere degli obiettivi per valorizzare degli asset straordinari che abbiamo sul nostro territorio di Monza e Brianza. Ecco, Monza e Brianza è legata all'immaginario collettivo per il mobile, ma in realtà il mobile è solo il terzo settore. I primi sono la meccanica e la chimica. Soprattutto c'è una meccanica e un'elettronica che sono fortissimi in Monza e Brianza, no? Sì, la meccanica ha un peso preponderante. Ci sono delle realtà locali, importantissime manifatture che vanno dalla pura meccanica, mi viene in mente tutta la parte di Viti e Bulloni, in cui abbiamo le aziende leader in tutto il mondo. La Brugola, la famosa Brugola. Fontana, che con l'acquisizione che ha fatto di recente di un'azienda negli Stati Uniti, è diventato il primo player al mondo di produzione di viti e bulloni, Brugola stesso a Grati, quindi diciamo il settore della viteria e della bulloneria è leader nel mondo e giace in Monza e Brianza, ma non solo, l'elettronica che lei ha citato, basti pensare che l'azienda più importante del territorio e anche di Confindustria Monza e Brianza è la ST Microelectronics, quindi che produce i chip e produce un sacco di prodotti legati sia all'automotive ma anche alla parte di alta tecnologia. È la maggiore azienda italiana, anche se italo-francese, nel settore. Tra l'altro annuncio agli ascoltatori che Pietro Palella, che è il country manager per l'Italia di ST Microelectronics, sarà ospite di Fabbrica 2.4 in una delle prossime puntate. Ecco, tornando invece alle aziende resilienti alla crisi, uno dei motivi per cui sono riuscito addirittura ad aumentare utili e fatturato in questi anni pessimi è stato l'export. Uno dei record della Brianza è l'export, se ce ne vuole parlare. Sì, l'export è sempre stato un punto di forza delle nostre aziende manifatturiere e non solo, quindi ogni anno ha segnato una crescita anche negli anni di crisi. Il 2015 è iniziato alla stessa maniera, quindi con un incremento del PIL di Monza e Brianza e molto trainato dai valori dell'export. Questo perché? Perché le aziende brianzole sono aziende di alto contenuto tecnologico, hanno un forte brand che è riconosciuto all'estero. Molte quindi hanno addirittura la forza di esportare senza produrre all'estero, quelle invece medie più strutturate hanno anche delle localizzazioni all'estero, che però sono dei veri processi di internazionalizzazione. Difficile che sono delle delocalizzazioni per cercare delle produzioni a più basso costo, vanno a localizzare le produzioni per cercare di vendere poi nei mercati asiatici piuttosto che in altri mercati non che in Germania c'è una forte esportazione. In Germania anche la sua azienda, la Dell'Orto, che si occupa di carburatori, di componenti e sistemi di iniezioni, lavora molto in Germania, no? Sì, in Germania per il settore automotive, che vuol dire auto e moto, è un mercato importantissimo, quindi sia per la presenza di costruttori leader in questo, sia per la possibilità poi attraverso questi costruttori di vendere in tutto il mondo. Quindi le aziende metalmeccaniche come la mia, che operano in automotive, vanno sui clienti tedeschi, che sono da Volkswagen, Audi, a BMW, a Porsche, a Mercedes, dei formidabili clienti che oggi poi ne testimoniano il fatto che l'andamento del mercato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, è molto positivo. Ecco, una delle cose che io ho notato, che anche lei ha messo in evidenza poc'anzi, è che le aziende brianzole, siccome investono in innovazione tecnologica in apparecchi, non hanno bisogno di delocalizzare per ridurre il costo della manodopera, e forse questo è anche uno dei motivi del loro successo, perché rimanendo tutti nello stesso territorio cresce nel tempo il know-how e la possibilità di scambiare informazioni, conoscenze, patrimoni, no? Esatto, infatti penso che questo è uno dei punti di forza e di successo del modello manifatturiero in Monza Brianza, è anche questo, nel senso che investendo molto sull'innovazione, sul design, rinforzando molto il brand, le aziende che vanno a produrre all'estero lo fanno non per non perdere il mercato che hanno, ma per andare a conquistarne dei nuovi, quindi esattamente un processo di internazionalizzazione per la crescita, e quindi questo lo fanno la maggior parte delle nostre aziende e con grande successo, e quindi per questo che la proiezione del modello di fare impresa in Brianza e manifatturiero è sicuramente molto rosea anche per i prossimi anni. Ma infatti io penso che sia un modello che andrebbe replicato su scala nazionale anche altrove. Lo sviluppo dell'Italia dovrebbe essere fatto sulla produzione, sulla fabbrica intelligente, su questo tipo di concezione. Però ci saranno anche dei problemi. Sì, i problemi rimangono e sono i problemi legati alla politica industriale e al fatto che l'impresa fa la sua parte, ma ovviamente le condizioni in cui opera l'impresa e quindi quello che ci si aspetta poi sulle regole del gioco che dovrebbero arrivare dal governo penalizzano la competitività dell'impresa, perché oggi ci troviamo ancora con una tassazione non solo in Monza e Brianza ma italiana che è molto elevata, è al 65,8% contro il 42% della media dell'Europa 28, i costi dell'energia che sono duplicati o triplicati rispetto a quelli tedeschi, e anche la burocrazia, noi sappiamo di essere oltre il 60° posto sui 189 paesi, quindi queste sono delle zavorre che abbiamo e che solo facendo un cambio di marcia anche a livello di legge, di governo e di politica industriale che arriva a livello nazionale potrebbero essere superate e rendere più competitivi anche le nostre aziende. Ecco, ringraziamo per ora Andrea Dell'Orto che sarà di nuovo nostro ospite in una puntata che dedicheremo al settore dell'automotive. Grazie per l'ascolto e arrivederci a sabato prossimo.